5C. Ascolta e trasforma. I risultati? Può comunicarmeli oggi? I risultati? Me li può comunicare oggi? I dolci? Può portarmeli domani? I dolci? Me li può portare domani? Gli esercizi? Può correggermeli domani? Gli esercizi? Me li può correggere domani? I pronomi? Può spiegarmeli oggi? I pronomi? Me li può spiegare oggi? La macchina? Deve ripararcela subito. La macchina ce la deve riparare subito. La verità deve dircela subito. La verità ce la deve dire subito. La storia deve raccontarcela tutta. La storia ce la deve raccontare tutta. La torta deve prepararcela speciale. La torta ce la deve preparare speciale.